Ancora in voce il martedì autogestito da femministe e lesbiche, una compagna dall'altro capo del telefono per un primo racconto a caldo di questo viaggio nel Rojava, di questa, come si dice, non mi viene la parola, spedizione, no? Di questa delegazione di donne organizzata insomma in occasione del 25 novembre che si è appena tenuta. Insomma, vogliamo anche dire che quella di oggi è solo un'anticipazione, solo perché vogliamo anche una restituzione dell'affetto in qualche modo di questa delegazione, ma poi ci saranno altri momenti collettivi per raccontare e discutere quanto insomma quello che è successo là, chi avete incontrato eccetera. Questa voleva essere solo una premessa, ma intanto se sì. Ci vuoi raccontare cos'è stata questa delegazione? Sì, diciamo che un po' non mi riesco a tenere perché è stata un'esperienza molto forte, molto interessante, molto bella, molto emozionante, perché comunque siamo andate a conoscere la rivoluzione femminista, la rivoluzione fatta dalle donne soprattutto e dagli uomini del Rojava, per cui insomma un po' c'è la voglia di raccontarla tanto. Poi sì, ci sarà un momento collettivo che pensiamo che sarà venerdì prossimo, il 12 quindi. Dicembre. E ancora non sappiamo il luogo, ma insomma poi lo faremo sapere. Una prima assemblea di restituzione per le donne della città, questa è quello che vogliamo fare. Siamo andate in 7 donne femministe e lesbiche da vari paesi europei, Italia, Germania, Austria e Francia, e 4 di noi vivono a Roma comunque, quindi insomma i racconti prossimi poi spero che saranno più collettivi di questo che mi accingo a fare. Anzi, aiutatemi anche voi un po' con domande, perché appunto ti aiutiamo volentieri, anche perché insomma quello però la foga è tanta che rischiamo di mettere le cose davanti, nel senso che poi appunto questa assemblea che ci sarà l'ascolto di un racconto, ma sarà anche la discussione di temi politici molto importanti, perché appunto si tratta di confrontarsi con compagne che in un'altra parte del mondo stanno mettendo in atto una rivoluzione. Sì. Allora, non lo so, si può partire dalla geografia, si può partire da quello che stanno facendo, si può partire dagli incontri. Partiamo dalla geografia, fatto. Dove siete state? Dai, allora, il Rojava è la parte sud del Kurdistan, che come sappiamo è diviso fra, non esiste come stato, è diviso fra Turchia, Siria, Iran e Iraq. Il Rojava è la parte siriana. Tutte immagino, spero, conoscano Kobane, che è uno dei 3 cantoni liberati di cui è composto questa nuova entità di autogoverno e di costruzione appunto di una società, di una democrazia radicale. I 3 cantoni non sono collegati fra loro, ma sono uno a est, uno a centrale che è appunto Kobane e uno a ovest. Quello a est è il cantone di Cizire, dove siamo stati noi. In mezzo fra i 3 cantoni c'è l'IS, lo Stato Islamico, che fra l'altro non chiamano Stato Islamico ma chiamano Daesh, e penso che anche noi dovremmo iniziare a usare questa parola. Poi ci sono le truppe di Assad, del regime siriano, e poi ci stanno Free Syrian Army e vari altri gruppi e gruppuscoli, insomma, per cui le tre regioni sono anche separate tra loro. Noi siamo state in quella più a est, che per dire, guardando la mappa, è un po' grande come la Corsica, diciamo, per dare un'idea, e confina con l'Iraq anche, per cui insomma noi siamo entrate da quella parte. Siamo state pochissimo, purtroppo siamo state tipo 4 giorni, perché poi siamo state prima di entrare siamo state bloccate al confine con l'Iraq, perché il governo regionale autonomo del nord dell'Iraq non ci dava il permesso per uscire, cioè siamo state bloccate al checkpoint, al posto di blocco, prima di arrivare al confine. Poi una volta che siamo riuscite insomma a sbloccare la situazione, arrivate al confine, abbiamo preso una chiatta e abbiamo attraversato il fiume Tigri, che già leucate, questo no? Insomma sì. E siamo arrivate dall'altra parte. Una delle cose più emozionanti che voglio raccontare è che dall'altra parte ci stavano i compagni e le compagne, cioè ci stavano queste donne e questi uomini con la faccia da compagni e la faccia da compagne. e accoglierci, perché anche loro ci aspettavano, e, ed è stata una cosa emozionantissima, insomma, molto bella. E per chiarire, insomma, magari a chi ci ascolta e ha seguito distrattamente, non credo, insomma, che sia successo alle compagne e ai compagni, ma questa radio la può ascoltare, la possono ascoltare tante persone, quello che sta succedendo è che, diciamo, di Rojava e di Kobane, i media italiani ne hanno parlato in particolar modo per la guerra che stanno combattendo, perché appunto l'IS e lo Stato Islamico li ha attaccati in questi territori che loro precedentemente avevano liberato e che stanno gestendo con una, appunto, una pratica di autogestione che possiamo definire rivoluzionaria e che è quello che in questo momento ci interessa di più, direi. Sì, sì, sì. La sensazione è quella che hanno un livello di elaborazione molto avanzato, nel senso che hanno analizzato tanto, guardato tanto anche le rivoluzioni, i tentativi di rivoluzione precedenti alla loro. Hanno analizzato gli errori, hanno analizzato le strategie e poi sono andati avanti con una loro costruzione, una proposizione di teoria pratica molto interessante. Molto interessante perché cioè, di fondo è basata sulla costruzione di nuovi esseri umani, di nuovi soggetti liberi, liberati, di nuove donne e di nuovi uomini. La parte molto grossa del lavoro che fanno è proprio quella della messa in discussione individuale e collettiva delle proprie identità, le identità quelle fisse, quelle stabili, tipo l'identità di genere per esempio. Le donne hanno un grande ruolo nella costruzione di tutto ciò, ma anche gli uomini partecipano a questo, sull'idea che per costruire uomini nuovi bisogna uccidere il maschio, dentro l'uomo. E quindi è anche visibile questo per le strade, nelle cose che fanno anche gli uomini, oltre appunto a questa grossa presenza organizzativa delle donne. E questa è una cosa molto interessante, una cosa che, insomma, che da una parte dà speranza, dall'altra parte ci interroga fortemente a noi su, appunto, loro hanno fatto la loro, stanno facendo la loro, noi da parte nostra che cosa vogliamo fare? Sì, e quindi anche di questo vogliamo discutere probabilmente insieme il 12, questa assemblea che probabilmente sarà il 12 dicembre, insomma. Sì, sì, diciamo che vorremmo farla, insomma, non far passare tantissimo tempo e quindi farla in quel periodo. Poi che dirvi, praticamente abbiamo incontrato le donne, le rappresentanti di varie organizzazioni di donne. Dalla Yekitia Star, che è un po' il movimento organizzato delle donne e che è diviso in strutture molto capillari, che sono presenti nei quartieri, nei villaggi, nei paesi e che quasi a livello di comune, diciamo, di vita in comune, e che a loro volta mandano delle delegate, delle portavoci che sono scelte a rotazione in riunioni cittadine e poi regionali. Le compagne e compagni sono molto presenti sul territorio, sono molto presenti ovunque. Poi abbiamo incontrato le lavoratrici di una cooperativa tessile di donne che in questo momento stavano facendo le divise per i combattenti delle YPG, le combattenti delle YPG, i combattenti delle YPG. Poi abbiamo incontrato le compagne di una casa delle donne, che sarebbe un po' come il nostro centro antiviolenza, che sono costruite già aperte in ogni distretto. Poi abbiamo incontrato le compagne dell'organizzazione Sara, che lo stesso lavorano contro la violenza maschile sulle donne, ma diciamo fanno un lavoro successivo a quella del centro antiviolenza, cioè non solo di accoglienza, ma poi di accompagnamento nel reinserimento, ricostruzione di una vita, oltre a fare un lavoro di studio di come evolve attraverso il lavoro delle donne, come evolve, come sta cambiando, se sta cambiando la situazione delle donne, per cui ogni 6 mesi tipo fanno come si dice, dei sondaggi, diciamo. Monitorano la situazione. La situazione. Poi un'altra cosa che un'altra struttura che hanno molto interessante è quella delle accademie, che sono praticamente, diciamo, delle scuole di presa di coscienza e delle scuole di formazione politica. Appunto, formazione politica sì, ma non solo, nel senso che comunque una grossa parte, come dicevo prima, riguarda proprio la messa in discussione, quindi anche imparare gli strumenti per mettersi in discussione, per analizzare e criticare se stessi, la società, e per poi poter costruire appunto qualcosa di nuovo. Per cui abbiamo incontrato un'accademia delle donne e poi anche un'accademia di giurisprudenza che sta riscrivendo, diciamo, una serie di leggi per la democrazia e la libertà. Per cui, per esempio, per ora ci hanno detto che hanno fatto una legge per l'abolizione della poligamia, che è una cosa molto, molto sentita, è stata molto importante sul territorio, perché era abbastanza radicata. E altri in questo momento mi sfuggono, scusate. Poi abbiamo incontrato, per questo è stato un bel incontro toccante per me, le donne dell'università, della prima università in lingua curda che hanno costruito, si chiama Mesopotamia, e in particolare la compagna che ci ha parlato poi era anche una grossa studiosa di femminismo, quindi siamo potute entrare un po' più nel confronto fra i femminismi, il loro femminismo, il nostro, e anche una cosa che fanno e che per esempio si studia anche nell'accademia è quella di cui parlano spesso, è questa cosa che la storia delle donne da 5.000 anni è una storia di oppressione patriarcale, ma che è importante rifarsi, questo ce l'hanno detto tantissimo, no? Gli ultimi 5.000 anni è stata così, ma come a dire, non è sempre stato così, non è che è scritto, come sappiamo che la società capitalistica è una delle società, ma non è quella che cioè data, così loro appunto fortemente si rifanno al fatto che la società patriarcale è una delle società possibili, ma non è l'unica. E quindi stanno riscrivendo tutta la storia delle donne, andando a trovare nelle pieghe, negli interstizi, nelle crepe del sistema, anche la storia delle lotte delle donne, rivolgendo i simboli dal neolitico, mi sembra dal neolitico in avanti. Questa è un'altra cosa. Sì, e l'altra cosa, insomma, che mi sembra importante per noi che ti ascoltiamo sottolineare è che appunto parliamo di accademia, parliamo di riscrittura delle leggi, parliamo di tutto questo, ma ne parliamo in quel lembo di mondo, insomma, attraverso la pratica dell'autogestione. È una costruzione, sì. Dal basso, insomma. Sì, assolutamente. E ti dico, questi poi appunto sì. Leggi, accademia e così via sono concetti e parole che da noi significano altro. Loro stanno anche facendo un lavoro di riscrittura della lingua, per cui per esempio le amministrazioni locali si sono date delle strutture che quando ci traducevano dicevano ministeri, diciamo una cosa simile ai ministeri, no? Però poi ci hanno spiegato meglio che appunto hanno voluto, siccome la parola ministero ha un significato molto chiaro nel contesto delle democrazie occidentali, loro si sono inventati un altro nome. Per cui stanno proprio facendo un lavoro, un altro nome che è, adesso non me lo ricordo, forse ce l'ho da qualche parte segnato, anzi sicuramente, ma vabbè. E per dire che comunque l'elaborazione è su tanti livelli, e per esempio queste strutture, questi diciamo consigli che possono essere appunto simili ai nostri ministeri, cioè a un certo punto a una maggiore centralità, hanno sempre a capo tre persone, e in queste tre persone devono essere rappresentate le varie differenze che ci sono sul territorio, per cui le differenze di genere, ma anche le differenze di provenienza etnico-religiosa, per cui nel territorio ci sono, oltre alle popolazioni curde, ci sono le popolazioni arabe, ci sono gli assiri, cioè i siriani, ci sono poi anche i turcomanni o gli yazidi e così via. E non so se avete... Un'altra cosa è che tutte le rappresentanti, le attiviste, le combattenti, cioè ognuna delle donne e anche degli uomini che lavorano per le organizzazioni e non prendono soldi. Il loro lavoro è un lavoro gratuito e ricevono ciò di cui hanno bisogno dalle strutture collettive, si pensa anziane, quello, se hanno bisogno di soldi li possono chiedere alla loro struttura di appartenenza, e per cui anche su questo c'è un'attenzione a non creare gerarchie attraverso appunto l'istituzionalizzazione dei lavori. Sì, diciamo appunto che, come dire, la differenza di genere, il capitalismo e l'idea di Stato-nazione sono i tre colossi che vengono sgretolati pezzo pezzo, no, da questa riflessione e da questa costruzione collettiva, dico bene? Sì, dici bene. Fra l'altro loro appunto hanno smesso di parlare di Stato, non parlano più di Stato, anche se appunto ci facevano, insomma, ci raccontavano anche in modo ironico che per anni e anni hanno parlato di Stato, ma anche la canzone che è l'inno del PKK, insomma, parla dello Stato, della costruzione dello Stato curdo e così via. Quando adesso vanno dalla gente a spiegarglielo, stanno ore a spiegare, a parlare, perché vogliamo costruire un autogoverno differente, con federalismo democratico un'altra cosa, strutture, e poi alla fine la gente dice sì, vabbè, ma quando facciamo lo Stato curdo? Vabbè, sto per dire, comunque. Sì, che c'è anche il coraggio di cambiare le riflessioni, sì, il punto di vista e le pratiche, insomma, dopo 35-40 anni di lotte. Sì, mi sembra, sì, di capire, sì, insomma. Sì, sì. La sensazione appunto è una grossa elaborazione, un avanzamento forte nell'elaborazione politica e pratica. Questa è proprio nella costruzione di un'identità nuova proprio come esseri umani. Questa è una delle cose più toccanti. Senti, che dà speranza, nel senso che poi io almeno personalmente ho un po' la sensazione che noi siamo sempre un po' bloccati su, no, le nostre lotte di resistenza, e loro hanno fatto un passo avanti, da giganti. Sì. Senti, in questo momento la presenza di internazionali nei tre cantoni del Rojava è piuttosto forte, continua. Anche in questo momento ci sono altri compagni e compagne da Roma, dall'Italia, dal mondo, e continuerà a esserci, insomma, questi microfoni da spesso spazio e voce a quello che succede nel Rojava, e anche, insomma, alle delegazioni e alla presenza di internazionali. Fra l'altro sabato mattina questa radio ha organizzato, insomma, un redazionale collettivo con vari compagni e compagne che in varie delegazioni sono stati estate nel Kurdistan, in varie parti di quella regione, di quella zona, sì, e sarà sabato mattina alle 11. Ma insomma, quello che volevo chiederti, insomma, è qual è la relazione politica che si apre tra essere, come dire, internazionali che vanno in Rojava, quali sono appunto, qual è non ti dico l'accoglienza, ma proprio, insomma, il terreno d'incontro, ecco. Allora ci dicono che ci possono aiutare. Molto. Nel senso che aiuto pratico da noi sì, ne vogliono, hanno messo in piedi delle strutture per poter essere chiari, delle organizzazioni per poter sviluppare dei loro progetti chiari e poi chiedere una solidarietà concreta. Dal punto di vista politico loro ci dicono venite qui e noi vi aiutiamo. Cioè, completamente mi sembra, senti veramente, che sta nelle cose. Cioè, mi sembra che abbiano molto presente che la rivoluzione deve essere per tutte e tutti, e quindi, insomma, si parte da una parte ma poi si procede. E ci hanno anche presente che noi non stiamo facendo molto per farla, e che ci conoscono come donne bene in Europa, siamo a un punto morto, e che il nostro femminismo in questo momento non sta proponendo un modello alternativo di società, lo è stato negli anni passati, ma oggi è vero, purtroppo, insomma, non è che siamo molto, insomma, no? Mi sembra che ci sia una difficoltà collettiva, sia femminista, che a vedere il movimento, insomma, nel suo complesso, sì, di come dire, costruire immaginari sociali su cui, insomma, costruire le nostre politiche. Completamente alternativi, completamente differenti, cioè su questo, completamente non integrati. E loro lo sanno come siamo messi in Europa, cioè lo sanno perfettamente perché ci leggono, perché ci sono un sacco di compagni curdi qui in Europa che lo raccontano e ci dicono, cioè facciamolo insieme, avete bisogno di noi, noi non abbiamo bisogno di loro, cioè siamo noi, abbiamo bisogno di loro. Questa è una cosa anche per me bellissima. Questo non c'è dubbio, e insomma diciamo appunto che il ruolo nostro andando là, oltre a ricevere questo aiuto, è anche quello di raccontare quello che succede, perché quando torniamo qui, quando sì. tornate, poi insomma quando torniamo e poi là evidentemente insomma c'è anche, immagino insomma, la partecipazione a progetti e comunque la presenza in un territorio che in questo momento subisce un attacco di guerra molto forte, che insomma è l'unico baluardo contro le truppe Daesh, che appunto sono quelle che poi i giornali chiamano IS, ma loro con quest'altro termine, mi sembra insomma di capire, sottolineano il fatto che si tratta di un esercito mercenario. Sì, non hanno voglia che sia usata la parola Islam per parlare del Daesh, cioè anche se noi abbiamo incontrato gente profondamente laica, però comunque hanno un rispetto dell'Islam che lo Stato Islamico, appunto il Daesh, non si merita in qualche modo. Noi devo dire che siamo andati in appunto moschee molto poche, chiese cristiane nessuna, e comunque anche quando ti salutano per esempio non dicono Inshallah, che vuol dire Dio ti benedica, no? Ma dicono Serkerten, che è un modo laico per dire, per esprimere questo concetto, o ti dicono che le stelle ti proteggano, che Ishtar ti protegga, cioè non hanno la sensazione è quella di una società anche laica, profondamente laica, insomma. Poi tanti dubbi ci sono rimasti, chiaramente, poi ci torneremo per capire meglio, chi vorrà tornare insomma e capire meglio alcune cose. Credo che poi ci siano anche differenze per esempio tra un cantone e l'altro, vedremo. E senti, non so se con insomma le compagne che avete incontrato avete parlato del fatto, non so, qua in Italia appunto i media mainstream hanno parlato di quello che succede nel Rojava solo dal punto di vista della guerra, solo per una decina di giorni, perché poi gli è passata subito la moda, e di fatto parlando tantissimo delle donne, ma parlando del fatto che ci sono le donne combattenti, le donne guerrigliere, c'è stato fatto insomma anche un po' di glamour su questo fatto, non so se su questo vi siete confrontate. Beh sì, loro lo sanno, anche questo ne sono consapevoli, e sono arrabbiate perché invece sanno che non è così, e che cioè che le donne si stanno prendendo tutti gli spazi che è possibile prendersi, spazi di autonomia, spazi di autodeterminazione. E quindi per esempio quasi all'inizio, diciamo, sì, il primo incontro che abbiamo fatto, ci hanno chiesto chiaramente: voi come parlate delle donne e quali sono le donne a cui date voce, qual è il modello di donna di cui voi parlate, proprio quali sono i contenuti, che cioè proprio ci hanno fatto una serie di domande molto chiare, molto, anche per capire chi eravamo, cioè che mi sembra anche giusto, cioè. Certo, perché ovviamente comunque loro si rivolgono a un femminismo rivoluzionario che collega classe, razza e genere, eccetera, eccetera, e non a chi magari usa questa parola per un riformismo molto light. Sì, sì, sì. Sì, comunque era sempre molto divertente nei vari incontri, quando arrivavamo, ci presentavamo e poi diciamo siamo tutte femministe, e loro erano super contente, cioè va bene, che sollievo, siete tutte femministe. Cioè, anche questo per esempio rispetto a come è considerato il femminismo in Occidente negli ultimi anni, è uno slittamento, un ribaltamento quasi di prospettiva, un ribaltamento semantico, no? Qui quando cioè, c'è sempre un po' di difficoltà a dire sono femminista, lo puoi dire solo sia tranquillamente con altre donne che sai, che condividi, che conosci e così via. Lì era proprio il punto di partenza, di base per poter instaurare un qualunque dialogo nelle organizzazioni, ma anche nelle famiglie dove siamo stati. Senti, per chi è in Italia, in Europa, in questo momento si trova, insomma, non può andare in delegazione in Kurdistan, insomma, quali sono le cose importanti, oltre, io credo, anche semplicemente a conoscere questa realtà? Che domanda, che vuoi sapere quali sono le cose importanti? No, che possiamo fare, insomma, da qua, che facciamo, oltre a ascoltarle, a leggere i loro testi? Insomma, ricordiamo per esempio che sul blog dell'MFLA, mfla.noblogs.org, ci sono degli audio raccolti in un incontro che c'è stato a Roma, la rivoluzione, insomma, delle donne curde, in cui ci sono alcune di loro che parlano, e quindi si può conoscere la loro analisi del mondo, la loro ideologia e la rivoluzione che stanno mettendo in atto. Io credo, insomma, che il primo atto sia quello di conoscere il loro pensiero e la loro rivoluzione. Dopodiché... A questo proposito segnalo anche il sito Wiki Onlus, che è proprio scritto Wiki con A-U-I-K-I Onlus, ha una sezione donne in cui ci sono, oltre agli atti del convegno, ma anche altre cose inserite già da un po' di anni, con per esempio interviste alle compagne, fra cui anche un'intervista, una parte in cui parla la compagna Sara Sakineh, che è una delle compagne, delle tre compagne, che è stata uccisa a Parigi oramai quasi 2 anni fa e che era una delle fondatrici del PKK. Lì, insomma, su quel sito c'è un sacco di materiale interessante per chi ne volesse sapere di più. Poi noi porteremo altro, abbiamo fatto tante interviste e dai microfoni al martedì, insomma, sicuramente nelle prossime settimane daremo voce a loro. E poi siamo in contatto e ci chiederanno di cosa hanno bisogno dal punto di vista pratico, e dal punto di vista politico hanno bisogno che noi facciamo il nostro lavoro a casa nostra. Giustamente. A me sembra molto interessante questo fatto, no? Almeno in Italia si è discusso, credo, almeno per 40 anni del fatto se si fa prima la rivoluzione anticapitalista o prima la rivoluzione femminista o prima un altro, e in genere si mette dopo la questione di genere, eccetera. C'è un dibattito anche un po' aspro da sempre. Mi sembra molto interessante che qui ci sia ventilata una risposta molto chiara fin dalle parole di Öcalan, insomma. Sì. Tra l'altro, un'altra cosa che io invito a fare è, ci sono due libretti che sono la traduzione di questi 10 tomi che ha scritto Öcalan, ma non solo lui, nel senso che poi comunque la scrittura di questo pensiero, diciamo, e prassi è un processo collettivo, per cui lui sta in carcere da quasi 20 anni, dal 98. E legge un sacco, scrive un sacco, manda le cose ai compagni, le compagne fuori che gli rispondono, per cui, insomma, c'è un processo di collettivizzazione del pensiero. E ci sono questi due libretti tradotti, una sul ruolo delle donne nella rivoluzione e una sul confederalismo democratico, che io invito a leggere anche quei due, perché sono interessanti e fanno capire un po' meglio, appunto, come credo che qui a Roma si possano trovare all'associazione Senza Confini. Sì, l'hanno tradotti Senza loro, confine. Credo, insomma. Sì, l'hanno tradotti loro, quindi penso che si possano recuperare facilmente in questo modo. Sì. E, senti, non so se vuoi aggiungere altro, ma ti chiediamo, cioè io ti chiedo, visto che, insomma, immagino che sia stato un viaggio tanto tanto emozionante, se ci vuoi dire a te cosa ha colpito di più, oltre, insomma, a questo racconto un po' da brividi che ci hai fatto prima, dalla chiatta sul Tigri all'abbraccio con le compagne e i compagni. I momenti più commoventi sono stati questi. Io spessissimo ho avuto le lacrime agli occhi, proprio cercando anche di reprimerle. Per esempio, a un certo punto, un giorno, comunque c'è stato l'anniversario dei 36 anni di fondazione del PKK, che è stato fondato nel 1978, e ci hanno portato in questo posto dove c'era questa, un posto all'aperto dove c'era questa commemorazione, e in realtà è accanto c'è il cimitero dove stanno seppelliti i combattenti e le combattenti degli IRPG e gli IRPG, perché l'altro anno nella città, questo era nella città di Kanishlo, dove l'altro anno c'è stata una grossa battaglia contro il Daesh. E c'erano tutte queste tombe, tutte le madri intorno, che tra l'altro, cioè, come si accorgevano di noi, ci venivano a salutare, a baciare, abbracciare, tra l'altro sono molto fisici, ti abbracciano proprio, ti baciano proprio, questa cosa è proprio, cioè, proprio sono scambi veri di baci, non finti. E per esempio quello è stato un momento in cui, cioè, proprio io mi sono imposta di non cacciare fuori una lacrima, perché quasi, cioè, nessuna di loro ha occhi asciutti, cioè la rivoluzione si fa a occhi asciutti. E noi insomma abbiamo molta ammirazione per tutta questa lucidità anche che traspare, sì, no? Sì. Cioè, i martiri ci sono nella rivoluzione, sono i figli giovani, le figlie giovani, però, cioè, si va avanti, altri prendono il loro posto e loro si stanno giocando tutto. In questo momento si stanno giocando tutto a Kobane. Infatti penso che sia importante anche organizzare altre iniziative di piazza, di solidarietà anche contro gli stati limitrofi che in questo momento, insomma, stanno contribuendo, appoggiando il Daesh contro in questa guerra. Credo che comunque dobbiamo continuare, appunto, sì, a essere presenti qui nei nostri territori anche, appunto, per loro. Concludiamo, insomma, ricordando tutta una serie di appuntamenti. Il primo, in ordine di tempo, dai microfoni di questa radio, sabato mattina alle 11, un redazionale collettivo con compagni e compagne che in varie delegazioni si sono recate nel Rojava, in Kurdistan. Il secondo, l'assemblea rivolta a tutte le donne la prossima settimana, probabilmente venerdì, ma insomma ve ne daremo notizia dai microfoni della radio, perché ancora non si sa il luogo e l'ora. E poi, insomma, nei prossimi martedì, al martedì autogestito da femministe e lesbiche, ascolteremo un po', insomma, degli incontri che avete avuto con queste compagne. Sì, insomma, anche io vi rimando agli incontri collettivi, sia la trasmissione su Radio Onda Rossa che alla restituzione che faremo, perché comunque per raccontare ho bisogno anche delle altre compagne di delegazione, chiaramente, perché, insomma, perché le cose si fanno insieme, siamo andate lì insieme, e anche per riuscire a essere più lucide adesso qui al ritorno, insomma, c'è bisogno di una voce collettiva. Noi comunque, prego. Intanto è iniziato, ecco. Intanto è iniziato, a noi ci ha fatto molto piacere, e quindi adesso ti ringraziamo. Va bene, e io ringrazio voi. A presto. Un a presto e Jinjian Azadi. Grazie. Ciao. Ciao.